scrivo di getto, rap che rigetto, non getto l'inchiostro. M come mostro, felino come Cagliostro. Tu dai il mio posto, sei un chilometro distante. Non sto un istante seduto, neanche in un seduto istante. Rap militante, colonna portante. Tu in colonna quel che scrivi, quando scrivi che è importante. Esuberante, ho tante rime in esubero. E tu scopri un mondo nuovo, come quando esci dall'utero. Per mano d'opera, supero chi si adopera. Tu opera al teatro, io ti apro come chi opera. Modera i termini, termini in modo pessimo. Ti strozzi e da strozzino ti do le mie rime in prestito. L'esito è gonfiare la tasca, perché ho teste la vostra deforme come i teschi a Nazca. La follia è impazza, io ci ho fatto il calo da incallito. Pensi sto impazzendo, so già impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, già sono impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, ma io sono già impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, già sono impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, ma io sono già impazzito. Beh, parte la nave, la testa va fuori, me lo me vuole. A mi straccio, io sono impazzito, sono impazzito, sono impazzito, sono impazzito. Fumo, bevo, tante altre cose. Io over the top, the overdose. Sono il papone, tu una puttana. Sono un leone affamato di grana. Sono uno shock, fammi uno shot. Ti mando in fissa come le slot. Sono come l'uragano Katrina. Sono il sorriso dopo una rapina. Per me stagioni tira sulle mani. Ti lascio stordito come se spari. Per me stagioni tira sulle mani. Sono fissato come il Ferrari. Sono contento come il contante. Sono contento se fatto contante. Sono il più forte, questo lo so. Io faccio rap e mica il cantante. Sono parato se c'è la volante. Giro di corsa, do di volante. Sono un bandito, sono impazzito, divento volante. Sono sparito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, già sono impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, ma io sono già impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, già sono impazzito. Sono impazzito, io sono già impazzito. Tu pensi sto impazzendo, ma io sono già impazzito.